italiano drifting di uno stella motorsport di uno stella drifting, drifting primo della storia man Zodi 105 tutti reg tutti king tutte le lady qui a vedere questa roba questa forza Drifting is my life.